Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Voto americano Joe Biden sempre più vicino alla Casa Bianca, ancora uno Stato e sarà presidente. I sostenitori di Trump protestano armati in Arizona. Nuovo DPCM in vigore da domani, lockdown per Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta. Protestano Cirio e Fontana, la Calabria annuncia impugneremo l'ordinanza. Gigi Proietti, oggi i funerali, corteo dal Campidoglio, poi al Globe Theater, le esequie nella Chiesa degli Artisti, a Piazza del Popolo. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con il voto americano che è ancora incerto, stanno proseguendo i conteggi, ma a questo punto a Joe Biden mancano solo 6 grandi elettori per ottenere la maggioranza a quota 270, praticamente uno Stato. Le prime certezze che stanno invece arrivando riguardano il voto al Congresso. Ecco come si sta formando il nuovo Parlamento americano. Resta in mano ai democratici la Camera dei rappresentanti, mentre al Senato è ancora testa a testa. Per riprendere il controllo della Camera alta, i Dem, in caso di vittoria di Biden, servono ancora solo 3 seggi. Tra conferme e new entries, intanto, prende forma il nuovo Congresso americano. Rieletta la Speaker della Camera Nancy Pelosi. Quasi scontata, sempre in area Dem, anche la riconferma della giovane stella progressista, icona dell'ala liberal, Alexandria Ocasio-Cortez e della sua squad anti-Trump. Ilhan Omar, somala naturalizzata americana, Rashida Tlaib, figlia di immigrati palestinesi, e l'afroamericana Ayanna Presley. Al quartetto si aggiunge ora Cori Bush, infermiera 44enne attivista del movimento Black Lives Matter, prima deputata afroamericana eletta in Missouri. È una new entry, ma nelle file dei repubblicani Taylor Greene. Aperta sostenitrice delle teorie cospirazioniste del gruppo estremista antisemita QAnon. Altra novità del Grand Old Party è Madison Cawthorn, 25 anni, il più giovane eletto al Congresso in oltre 50 anni. Sarah McBride, attivista per i diritti LGBT, è invece la prima senatrice transgender nella storia degli Stati Uniti. Tra i democratici eletti anche l'ex astronauta Mark Kelly, protagonista insieme al fratello gemello Scott di uno degli esperimenti più noti della NASA. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora veniamo in Italia e, come avete capito, in primo piano c'è ancora l'emergenza Covid con il nuovo DPCM che entrerà in vigore da domani, dividendo le regioni tra gialle, rosse e arancioni. Ci sono alcune richieste, la Campania addirittura chiede di avere un livello di allerta maggiore, la Lombardia e il Piemonte invece contestano i dati, dicono che sono dati vecchi quelli in base alle quali sono state definite le zone rosse, e la Calabria invece ha annunciato poco fa che impugnerà l'ordinanza di Speranza. Sentiamo. Il lockdown che inizia domani pesa su territori già profondamente colpiti, ma non bisogna perdere il senso di unità nazionale. Il presidente del Consiglio Conte fa appello alla responsabilità dopo le forti critiche arrivate dalle regioni al nuovo DPCM. È surreale che ci sia chi fa finta di ignorare la gravità dei dati dei propri territori, gli fa eco il ministro della Salute Speranza, che invita a non alimentare polemiche inutili. I governatori delle regioni diventate zone rosse arancioni vanno però all'attacco. La Calabria annuncia che impugnerà l'ordinanza del ministro della Salute. Il presidente del Piemonte Cirio chiede al governo di fare chiarezza sulle regole che hanno orientato le sue decisioni. Quello della Lombardia Fontana parla di schiaffo di Conte ai lombardi, mentre dalla Sicilia Musumeci avanza il dubbio che l'esecutivo abbia voluto colpire le regioni amministrate dal centrodestra. Alle critiche dei governatori si uniscono anche le opposizioni. La maggioranza difende invece le nuove misure e assicura che ci saranno ristori per le attività più colpite dalle chiusure, anche se Italia Viva chiede al governo più chiarezza e trasparenza sui dati che indirizzano le sue scelte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nonostante le proteste delle regioni e anche i giusti distinguo, se volete, che le cose non vadano per il verso giusto, dimostrano anche le prossime due notizie di cronaca in Veneto. Poco fa sono stati diffusi i dati, più 3.264 casi in un giorno, e si tratta di un nuovo record, mentre un nuovo focolaio di Covid invece è stato registrato al Pio Albergo Trivulzio di Milano, già pesantemente coinvolto nella prima ondata. Adesso ci sono ben 64 dipendenti positivi. In attesa dell'entrata in vigore del nuovo DPCM con le misure anti-Covid che divide l'Italia in tre aree di rischio, in zona rossa, arancione e gialla, e della conferenza stampa del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro e del direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Rezza sugli indicatori che hanno portato all'ordinanza di ieri, continuano le polemiche di governatori e sindaci. E mentre la provincia di Brescia, raccogliendo le istanze giunte dal territorio, si è fatta portavoce delle richieste dei sindaci affinché Brescia non sia considerata zona rossa, il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, commentando la complessità del sistema scelto per definire le zone, ha detto che le decisioni del governo vanno rispettate, ma che lui avrebbe scelto un sistema più semplice ed uniforme. Intanto, proprio nel capoluogo lombardo, 64 dipendenti su un totale di 551 sono risultati positivi al Covid al Pio Albergo Trivulzio. All'ospedale di Rivoli, in provincia di Torino, invece, a causa dell'eccezionale numero di pazienti ricoverati, si è dovuti ricorrere alle barelle da campo, quelle che rimangono a terra, perché nella notte sono finiti letti e barelle tradizionali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora i dati sull'economia e sul lavoro. L'INPS ha diffuso quelli sulla cassa integrazione, quasi 3 milioni e mezzo le persone che l'hanno ricevuta, secondo l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. All'appello a questo punto mancherebbero ancora 12.000 persone. Intanto domani sciopero dei tassisti. I taxisti si danno appuntamento per domani alle 10 davanti al Ministero dell'Economia a Roma per lo sciopero nazionale delle auto bianche, e manifestazioni sono previste in altre grandi città. Abbiamo trasportato per mesi pazienti e medici, spiega Alessandro Genovese, UGL Taxi. Abbiamo comprato paratie e dispositivi, ma ora il paese si ferma e gli aiuti previsti sono minimi. Così non si può andare avanti. Intanto l'INPS comunica che sono quasi 3 milioni e mezzo i beneficiari della cassa integrazione da maggio, un lavoratore dipendente su 5. È stato quasi del tutto recuperato il ritardo sui pagamenti, ma restano ancora da pagare l'1,5% delle mensilità, e in particolare 12.000 persone non hanno ancora avuto nulla, di cui 6.000 per mensilità precedente ottobre. L'INPS assicura che sta lavorando con le imprese per risolvere caso per caso i problemi e sbloccare i pagamenti. La Commissione europea calcola per quest'anno un calo del PIL italiano del 10% circa, peggio del meno 9 previsto dal governo, e prevede che una ripresa dell'economia ai livelli pre-Covid avverrà non prima del 2023. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Con la cronaca ci spostiamo a Napoli, perché emergono nuovi particolari sulla morte di un ragazzo 19enne accoltellato dopo una lite per futili motivi la notte tra martedì e mercoledì a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Si chiama Domenico Iossa, ha 18 anni appena compiuti e fa il carrozziere. È l'assassino, reo confesso, di Simone Frascogna, il 19enne morto accoltellato la notte tra martedì e mercoledì a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Accompagnato dal suo avvocato, Iossa si è costituito nella tarda serata di ieri. Le indagini proseguono per far luce su quanto realmente è successo, ma quanto si può ricostruire a provocare la tragedia sarebbe stata una banale lite tra giovanissimi. Uno sguardo di troppo oppure una precedenza mancata. La vittima, forse, non avrebbe fatto passare la smart dell'aggressore, provocando fino al centro del paese. Le due auto si sono accostate sul corso Umberto I, la via principale di Casalnuovo, la colluttazione nella quale sembra stesse avendo la meglio la vittima, esperta di arti marziali, e alla fine i quattro fendenti che hanno spezzato la vita di Simone. Ferito anche l'amico che era in macchina con lui, i complici dell'assassino, due ragazzi, sono già stati fermati. La procura di Nola sta coordinando le indagini, ipotizzando per Iossa l'omicidio volontario aggravato. La città vive una delle giornate più tristi della propria storia, le parole del sindaco di Casalnuovo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi è il giorno dell'addio a Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre scorso, nel giorno del suo 80esimo compleanno. I funerali si tengono nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, naturalmente a Roma. Un lungo corteo silenzioso attraversa la città, prima al Campidoglio, poi a Piazza Venezia e infine al Globe Theatre, il suo teatro dove l'accoglie un applauso di 5 minuti. Gigi Proietti viene salutato dagli attori, dalle maestranze, dagli amici nel giorno del suo funerale. Il ricordo di Paola Cortellesi. E le mele, le sono buone, sì, le mele, ma non le posso digerir. La cantavo a 5 anni. A quell'età avevo già consumato l'audiocassetta di A me gli occhi please. Non potevo conoscere l'Amleto, ma avevo idea che fosse una storia tanto allegra mentre citavo le frombole e i dardi dell'avversa fortuna. E ci sono anche quelli che sono stati gli allievi del suo laboratorio, come Enrico Brignano. Adesso non ci sei, non ci sarai per molto, molto tempo, non ci sarai, lo vedi, non ci riesco. Perdonami G, mi conosci anche tu, ma io non ci riesco a dire la parola più. Poi il feretro, coperto da rose rosse, si dirige a Piazza del Popolo, nella chiesa degli artisti, per i funerali. Fuori la folla accoglie il grande mattatore con uno striscione, Viedda piagne. Per la sindaca Virginia Raggi, Roma ha perso un pezzo della sua anima. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13-11 minuti, siamo allo sport, il calcio. Chiusa la 2 giorni di Champions, stasera tocca all'Europa League. Una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, bilancio in rosso per le italiane dopo il terzo turno di Champions. I KO sono quelli dell'Inter a Madrid contro il Real. Producono tanto i nerazzurri, ma spesso raccolgono meno di quanto seminano, anche se nell'occasione dovevano fare a meno del bomber Lukaku. E quello dell'Atalanta in casa contro il Liverpool. I Reds hanno dominato, segnale preoccupante per la banda Gasperini, finora considerata quella con la dimensione europea più pronunciata tra le nostre squadre. La vittoria è quella della Juventus a Budapest contro il Ferencváros, nel segno ancora una volta di Morata, goleador, uomo assist e finora perfetto partner anche per Ronaldo, ma davvero troppo tenera la resistenza opposta dagli ungheresi. Il pareggio arriva dalla Lazio, che in rimonta chiude sull'1-1 contro lo Zenit a San Pietroburgo, ma ora per il gruppo laziale c'è da risolvere la grana dell'esito dei tamponi, esito alquanto ondivago, tanto da attirare l'attenzione della Procura federale. Staremo a vedere. Intanto stasera torna all'Europa League, il Milan capolista in Serie A ospita il Lille, il Napoli va sul campo dei croati del Rijeka, la Roma riceve i romeni del Cluj. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questa era la sintesi della giornata di oggi. Tra poco, dopo una piccola pausa, Effetto Giorno torna con tutte le altre notizie e gli approfondimenti. Saremo con il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga per capire il sistema a zone gialle, arancione, rossi messo in piedi dal governo, se funziona e come funziona. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Voto americano, Joe Biden sempre più vicino alla Casa Bianca, gli mancano 6 grandi elettori, i sostenitori di Trump protestano. Nuovo DPCM in vigore da domani, lockdown per Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta, rivolta delle regioni, la Calabria stessa dice impugneremo l'ordinanza. I funerali di Gigi Proietti, oggi a Roma il corteo dal Campidoglio e poi le esequie alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Allora, abbiamo detto che cercheremo di fare il punto su questa divisione in zone gialle, arancioni, rosse, prevista dal governo in base a 21 parametri, ne abbiamo parlato molto anche ieri, lo sapete. La notizia invece delle ultime ore è che ci sono una serie di regioni che non sono d'accordo. Ora, se non fosse una situazione seria, anche grave, che abbiamo di fronte a noi da molti punti di vista, sarebbe uno spettacolo anche straordinario, incredibile, perché effettivamente noi abbiamo dalla Campania, che sta in zona gialla e che chiede di stare in una zona di allerta maggiore, poi abbiamo chi invece come la Sicilia, che sta in zona arancione, quindi un livello intermedio, e che chiede di cambiare eventualmente per andare in una zona gialla perché pensano di avere un minor rischio. La Calabria impugna, è zona rossa, ha deciso che impugnerà questa decisione perché evidentemente ritengono di non avere un rischio elevato. La Lombardia e il Piemonte contestano che i dati sono vecchi, i dati del 25 ottobre, e quindi dicono che queste classificazioni sono vecchie. Se non fosse che a Milano, per esperienza diretta, ci vogliono fino a 6-7 giorni per avere l'esito di un tampone, allora uno potrebbe anche dire va bene, i dati vecchi non vanno bene, ma allora siate più veloci. Va bene. Ripeto, questo è proprio il federalismo, il regionalismo del rischio, ognuno la vede a modo suo. Noi siamo con Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, dopo questo che era, diciamo, a tinte un po' colorate, colorite, che colori ci sono, ma insomma, anche da parte mia un po' volutamente anche scherzoso, però questo è il quadro, queste sono tutte notizie, dal ricorso della Calabria alla campagna che chiede di cambiare e di andare su un rischio maggiore, eccetera. Voi siete, diciamo, siete classificati zona gialla. Intanto le chiedo le sue considerazioni per quanto riguarda il Friuli, se ne ha da fare anche lei. Guardi, per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia, nessuna regione italiana non è a rischio. Chiaramente il contagio è in salita, lo stiamo vedendo non soltanto in Italia, in tutta Europa, quindi misure di mitigazione del rischio servono, non credo servano solo misure di mitigazione del rischio legate a chiusure di attività. Penso che per esempio si possa anche ipotizzare, noi come regione lo stiamo vagliando, l'ho mandato anche a livello nazionale al governo, per esempio l'utilizzo di nuova strumentazione che possa mitigare il rischio. Penso a chi fa sanificazione d'aria o d'altro, che va a ridurre tutto quell'effetto che ci raccontano gli studi che è particolarmente pericoloso, cioè l'effetto aerosol che avviene dentro i posti chiusi, che durante questa stagione ovviamente sono molto affollati. Giusto. Quindi penso che noi dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, perché la soluzione non può essere solo cosa chiudiamo, ma anche qual è la tecnologia disponibile che ci permette di vivere con maggiore sicurezza. Soprattutto questo io credo. Alcuni suoi colleghi contestano i dati, dicono che sono dati del 25 ottobre, dati vecchi. A dire la verità, guardando le curve in quasi tutte le regioni, dal 25 ottobre adesso i casi sono aumentati, quindi non so bene questo dato vecchio in che modo, diciamo, alleggerirebbe la posizione di alcune regioni. Lei come ha interloquito con Ministro Speranza, col governo, su questa classificazione? Come è venuto a sapere che eravate gialli? Io ho saputo alle 20:15 di ieri sera tramite un messaggio inviatomi dal Ministro, quindi qualche minuto prima dell'inizio della conferenza stampa di Conte, ma io penso che il problema sia un altro, è quello che è emerso oggi durante la conferenza delle regioni. Cioè? Per fare scelte di questo tipo serve un confronto con le prevenzioni e le regioni, perché altrimenti se non c'è chiarezza su come vengono elaborati e decisi i dati, perché come capiamo le 21 parametri non sono parametri assoluti. Alcuni sono oggettivi, altri effettivamente non lo sono. Sono soggettivi. Beh, è legittimo che siano soggettivi, nessuno pretende di avere un computer che immette i dati e automaticamente ti trova la soluzione, ma per questo è utile un confronto con le singole regioni. Ed è quello che abbiamo chiesto durante la conferenza delle regioni, perché lei pensi, non possiamo pensare che anche se fosse un calcolo matematico che improvvisamente si chiuda per esempio da domani la regione che crea il maggiore PIL in Italia, che è la Lombardia. È chiaro che ci deve essere sotto anche una scelta politica con le anche mitigazioni dettate, sì. Penso dagli aiuti, come abbiamo chiesto noi, dalla sospensione delle imposte per il 2020-21 per le attività che vengono assolutamente chiuse. Però Fedriga, io le voglio chiedere invece su questo molto chiaramente una sua opinione, perché chiaramente la politica deve essere sempre presente, però il virus non è che guarda in faccia alla politica, se ammettiamo questo punto, diciamo, di partenza, perché la divisione in aree di rischio sembrerebbe, a meno che non venga vanificata da un uso distorto di tutto questo, una misura razionale, perché il lockdown nazionale che abbiamo vissuto a marzo penalizzava sicuramente quelle realtà che avevano un minor rischio. Ripetere questo errore, tenere chiuse Basilicata, Molise, regioni che non hanno alcun rischio, la sua, perché c'è un rischio invece in altre regioni, sarebbe stato sbagliato. È razionale perché rende queste limitazioni necessarie, come dire, commisurate al rischio, ma anche perché in qualche modo credo responsabilizzi i territori, le regioni, tutti possono migliorare la risposta sanitaria, la quantità di tracciamento che si fa, i sistemi delle ATS. Anzi, secondo me il governo dovrebbe addirittura, ma lo stava dicendo anche lei prima, aumentare la trasparenza di questi dati, di questo monitoraggio, in modo proprio da incentivare. Sarebbe quasi a creare un portale, non so se è d'accordo, dove ogni cittadino va, guarda il rischio della propria regione e dice cosa possiamo fare qua, aumentiamo il tracciamento, miglioriamo i trasporti, in modo che usciamo rapidamente da una zona rossa e andiamo in una zona arancione, consapevolmente. Io non so lei se sul principio è d'accordo. No, ma guardi, proprio penso che la trasparenza stia anche dentro la tenuta sociale del sistema, perché se una scelta risulta poco chiara e poco comprensibile, rischiamo appunto quelle proteste che stiamo vedendo. Se invece si spiega, io sono convinto, guardi, io ho incontrato tutte le categorie economiche, anche quelle chiuse col precedente DPCM, nessuno mi ha detto non siamo disposti a fare i sacrifici. Ha detto siamo disposti a fare sacrifici, ma se servono a tutelare la salute. Ed è chiaro che alcune scelte, dove per esempio sono state chiuse alcune attività, dove non abbiamo riscontri di focolai o focolai importanti, reputano queste categorie che non, quindi non serve a contenere la pandemia, ma reputano, loro si sentono presi come capro espiatorio rispetto a una situazione difficile. Per quello le scelte devono essere trasparenti, chiare e comprensibili ed eque. E quello che chiedono anche le regioni, nessuna regione dice siamo tutti tranquilli, facciamo finta che il virus non esista. Diciamo solo prendiamoci la responsabilità insieme, le regioni non hanno chiesto di non prendersi la responsabilità. Decidiamo insieme su, anche sulle specificità del singolo territorio, però deve essere qualcosa fatto in modo condiviso, perché altrimenti anche alle regioni diventa impossibile spiegare le motivazioni delle scelte e delle conseguenze di quelle scelte. Io credo condiviso e trasparente, addirittura accessibile anche al singolo cittadino, non dico il dettaglio del singolo parametro, ma come nasce questa luce gialla, rossa, arancione o possibilmente anche verde, con una gradazione di intensità, in modo che uno possa andare a controllare come sta la propria regione e quali sono i punti deboli, in modo da poter anche proprio chiedere, visto che la sanità è regionale, visto che abbiamo questo strumento che è il federalismo, di utilizzarlo per, come dire, spingere anche tutti insieme nella direzione di migliorare le condizioni. Grazie Massimiliano Federica, grazie per essere stato con noi. Il presidente del Friuli Venezia Giulia. Adesso invece cerchiamo di darvi le ultime notizie sul fronte delle elezioni americane. Con noi Riccardo Barlam, corrispondente dagli Stati Uniti per il Sole 24 Ore. Riccardo, ciao, ben ritrovato. Ciao a tutti, ciao Alessio. Allora, ripartiamo un attimino da lì, perché noi abbiamo sempre bisogno, in questa complessa situazione, di focalizzare intanto il dato sul conteggio, poi parliamo anche delle proteste dei sostenitori di Trump e delle dichiarazioni. A che punto siamo? Allora, sono proiezioni, ci vorrà ancora tempo. Qualcuno oggi è uscito un dato sulla North Carolina, parlano di una settimana ancora per conteggiare i voti postali, quindi come dire, non è tanto ha vinto questo, ha vinto quello, ma sta succedendo questo. Come mai quindi così tanto questo... per il voto postale, Riccardo, ci vuole? Perché quest'anno tutti gli stati americani hanno rivisto le regole elettorali e quindi ogni stato fa come le regioni, insomma ogni stato fa di testa sua, quindi ci sono alcuni stati che dicevano che il voto postale è stato ampliato, questa possibilità di voto anticipato, nell'anno del Covid, in cui ci sono problemi ad andare in giro e la gente può votare con le poste, insomma. E ognuno ha fatto di testa sua, quindi ci sono stati che hanno detto bisogna rimandare la lettera entro il 3 novembre, altri entro domani, come la Pennsylvania e la North Carolina, e la California addirittura il 20 novembre. E quindi è una babele di regole. In tutto questo, ovviamente, sapete, da mesi Trump dice che saranno frodi postali, frodi. E quindi la cosa non ha fatto che ancora di più accendere le aggravare tensioni. Questo aspetto comunque al momento dal discorso sul conteggio, prego. No, al momento il conteggio, diciamo, Biden è appeso al Nevada, perché ci vogliono 270 grandi elettori per vincere, lui è 253, dovrebbe avere anche l'Arizona e quindi andare avanti ancora, gli mancano questi sei grandi elettori del Nevada, dove però i due candidati mancano ancora un po' di 10-15% di spoglio, lo dico con una precisione, siamo all'86% dello spoglio delle quindi, schede, diciamo. Quindi all'86% dello spoglio delle schede postali o di complessivamente del voto? Complessivamente. Biden ha il 49,3% dei voti, Trump è il 48,7%, quindi sono lì. E se Biden vince il Nevada, ha vinto le elezioni americane. Se no, diversamente diventa un po' più complicato, perché ci sono altri stati in bilico e Trump, dove Trump dovrebbe vincere, quindi potrebbe vincere essere anche Trump. Lui, al momento va avanti e avanti Biden. La cosa abbastanza preoccupante, sì, appunto, sono da un lato le dichiarazioni di Trump. Va registrato che questa notte ha parlato Biden e ha detto, appunto, io non sono, intanto non ha detto ho vinto, ma stiamo verso la vittoria, ha detto. E poi ha detto, io non sono un nemico, sono un avversario politico, come dire, non sono il diavolo. Quindi se poi, se non sbaglio, ha anche detto politico. Non ci sono stati rossi, stati blu, ci sono Stati Uniti d'America, o sbaglio? Esatto, sì, questo lo ripete, lui ha detto, io sono il candidato democratico, ma lui ha detto, se dovessi vincere sarò il presidente di tutti gli americani. È un linguaggio completamente diverso da quello che invece ha Trump e soprattutto i suoi collaboratori. Questa notte ha parlato Rudy Giuliani, che è stato procuratore a New York, negli anni 70 ha sgominato la mafia, è stato sindaco di New York, adesso nella tarda età sembra aver perso il senno, perché è stato per anni il capo delle operazioni speciali, diciamo, della fabbrica, sì, del fango di Trump in Ucraina e in Cina. Adesso qualcuno avrà seguito anche Borat, che l'ha preso alla berlina, e adesso è il capo di questo team legale di 4.000 avvocati volontari dei repubblicani che stanno monitorando il voto. E Giuliani questa notte ha detto, ci stanno rubando il voto, la stessa cosa che ha detto Eric, il figlio di Trump. Insomma, è uno scenario da un lato, al di là di chi vince, che è un po' penoso per la salute, lo stato di salute della democrazia americana. A me ricorda la Costa d'Avorio, dove qualche anno fa c'era stato un presidente che aveva vinto all'opposizione e quello che era nel palazzo del potere non andava via, c'è stata proprio una guerra civile con i morti. Quello che tristemente sta avvenendo qua, perché ieri ci sono state 100 manifestazioni di protesta, sì, da un lato, al grido di contiamo ogni voto vale, e dall'altro lato ci sono state le contromanifestazioni di quelli che dicono invece no, bloccate il voto postale. E c'è stato un episodio abbastanza preoccupante in Michigan, sì, è questo stato dove Detroit, stato operaio, dove un mese fa hanno arrestato 12 miliziani di estrema destra che stavano progettando di sequestrare la governatrice democratica, di fare un sequestro politico tipo Aldo Moro, e poi di, sì, evidentemente di insomma, non so come sarebbe andato a finire. È come se, per esempio, in Italia decidessero di sequestrare De Luca o Fontana perché vogliono fare il lockdown. Ecco, questa era la storia. Perché loro dicevano che c'era. Devo chiudere perché siamo arrivati alla no, pausa. No, scusami, sì. Insomma, questi del Michigan ieri sono scesi in piazza per dire dovete bloccare gli scrutini, non dovete contare gli scrutini, perché la CNN e il New York Times dicevano che stavano vincendo quegli altri. E quindi, insomma, è una roba, qualcuno è stato arrestato, non c'è scappato il morto, spero che non ci scapperà, ma è possibile che succeda nelle prossime ore, insomma. Speriamo assolutamente no. Riccardo Ballan, grazie per essere stato con noi. Le ultime notizie su questo fronte erano le proteste anche avvenute in Arizona. 300 persone almeno, alcune delle quali armate, erano riunite davanti al Dipartimento Elettorale di Phoenix per contestare naturalmente il vantaggio di Biden. 13:32, siamo un po' in ritardo, andiamo sulle informazioni di borsa e poi torniamo tra poco. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Voto americano. Joe Biden è sempre più vicino alla Casa Bianca, ancora uno Stato e sarà presidente. I sostenitori di Trump protestano armati in Arizona. Nuovo DPCM in vigore da domani, lockdown in 4 regioni. La Calabria però annuncia, impugneremo l'ordinanza del ministro Speranza. Oggi a Roma i funerali di Gigi Proietti, stamattina il corteo dal Campidoglio al Globe, ora in corso le esequie nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, abbiamo parlato con il presidente della Friuli Venezia Giulia Fedriga della, insomma, quello che abbiamo definito il regionalismo dei coefficienti di rischio, ogni regione che si sta valutando in queste ore diversamente da quanto è stata classificata dai parametri del governo, c'è un po' di confusione, qualcosa sicuramente alimentato dalla poca trasparenza con cui questi parametri sono stati applicati. Forse c'è anche un po' di originalità da parte di alcuni governatori che se ne vanno in ordine sparso. A questo è dedicato il punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Ci sono 21 indicatori, dalla tenuta degli ospedali all'efficacia del tracciamento, che creano la pagella sulla diffusione del Covid per le singole regioni. Li hanno elaborati i tecnici e gli scienziati per aiutare il governo a scegliere una linea nazionale nella gestione della pandemia. Una linea che è indispensabile visti gli sbandamenti, innanzitutto istituzionali, delle ultime settimane. Servirà però un'operazione trasparenza su questi numeri, che finora sono stati disomogenei e troppo grezzi. Però c'è un dato che ci deve aiutare nell'analisi: la pressione sugli ospedali. La soglia di allerta per i posti letto occupati nella terapia intensiva, ad esempio, del 30%, la Lombardia al 47%, il Piemonte al 40,5% e sono zone rosse, la Liguria con il 36,8% e l'Umbria con il 47,6% però sono zone gialle. E questo non torna, soprattutto perché ad esempio la Liguria ha la pressione sui posti letto in generale più alta al 63,8%, ben oltre il 40% considerato soglia limite. Finché regna questa confusione sui dati, la polemica politica avrà sempre la meglio. Adesso è con noi Roberto Romito dell'Associazione Nazionale Presidi Puglia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, parliamo proprio di questo, di scuola, di come le scuole vengono ricomprese in questo nuovo DPCM, perché c'è da dire che anche nel caso peggiore, cioè nella fascia di rischio maggiore, col coefficiente di rischio più alto, elaborato proprio in base a questi 21 parametri, di cui abbiamo parlato anche prima, in nessun caso si è deciso comunque di chiudere la scuola. Al massimo in zona rossa, chiuse scuole secondarie, cioè chiuse, diciamo, con didattica a distanza per le scuole secondarie superiori, si passa alla didattica a distanza anche per seconda e terza media. Quindi dalla prima media in giù, in qualunque caso, il ciclo scolastico e la scuola in presenza viene salvaguardata. Però in Puglia, Romito, che succede? Beh, la contraddizione è evidente e palmare, c'è un disallineamento totale tra la misura adottata dal governo, che credo che sia quella da reputare giusta anche perché sorretta dai elaborazioni dei suoi autorevoli consulenti, Istituto Superiore di Sanità e Comitato Tecnico Scientifico, ma anche dalle regioni stesse, perché il Presidente Conte l'ha detto ieri sera nella sua conferenza stampa, le regioni sono coinvolte. Abbiamo una regione collocata in una zona intermedia di rischio che invece si autoassegna, se l'è già autoassegnata qualche giorno fa con l'ordinanza 407 del Presidente Emiliano, una situazione di rischio enormemente maggiore. Tanto da avere ricadute però soltanto sulla scuola. Le faccio sentire un attimo Romito, senza mettere in difficoltà Lopalco, che è sempre molto disponibile a intervenire, sempre molto franco nel dire quello che pensa in tutte le situazioni, perché ieri il vostro assessore alla sanità alla nostra domanda diretta, ma a questo punto decade l'ordinanza sulla chiusura delle scuole perché c'è un DPCM più grande, lui inizialmente ha risposto così, sentiamo. Il DPCM è chiaro, nel momento in cui un DPCM stabilisce che le scuole elementari debbono essere aperte, è lì, è così. Noi, fra l'altro, in questo DPCM non viene concessa alle regioni la capacità, come potevamo far prima, di inserire delle misure più stringenti. Prima le regioni potevano stringere, non potevano allargare, ma potevano stringere. In questo DPCM questa potestà non ci viene più concessa. Le dovrete riaprire. Abbiamo flessibilità, non abbiamo nessuna flessibilità di azione. Ecco, Romito, può darsi che poi abbia di nuovo parlato con Emiliano, può darsi che a livello regionale si sia deciso diversamente, insomma, però ecco, diciamo di prima acchitto sembrava che l'intenzione fosse quella di allinearsi e quindi riaprire. Come pensa che andrà a finire? Dunque, io ho il massimo rispetto per le opinioni del professor Lopalco e devo dire che anch'io ero stato rinfrancato dalle sue dichiarazioni del pomeriggio, perché andavano esattamente nella direzione che noi avevamo già preso e che già da qualche giorno noi della NP avevamo chiesto il ritiro dell'ordinanza di Emiliano. Ora non so cosa sia successo a livello di equilibri politici in regione, tanto sta che ieri sera è uscito mentre Conte parlava in televisione, una lancio stampa della regione in cui Emiliano e Lovalco insieme dicono invece l'ordinanza non si tocca, eventualmente se il governo la vuol toccare la revochi lui. Però rimane intatta in piedi la discrasia, sì, l'illogicità di cui parlavamo prima, sì, cioè una regione collocata in una zona di rischio intermedio che si autoassegna solo per la scuola un rischio che non è previsto dalle norme nazionali. No, sarebbe, le norme nazionali non prevedono una regione più rossa della rossa. No, certo. Sarebbe anche come proprio andare contro a quello che è il lavoro fatto al CTS, da chi ha messo insieme questo coefficiente di rischio complesso. Qualcuno dice forse troppo complesso, ma sicuramente non è questi 21 parametri non sono un qualcosa di semplicistico, no? Che può essere tagliato a fette così. Quindi evidentemente c'è un qualche cosa che non va da qualche parte. Senta, un'ultima cosa, Romito, diciamo, il vostro appello mi sembra chiaro, diciamo, a rivedere questa decisione in Puglia. Le voglio chiedere però una cosa che riguarda invece le mascherine, perché questo sì, il DPCM prevede l'obbligo proprio anche nel momento in cui i ragazzi sono seduti in classe, anche i bambini con più di 6 anni. Su questo avete fatto delle riflessioni, cosa ne pensa? Ma io sono perfettamente d'accordo, visto che è una norma che proviene dalle massime autorità sanitarie nazionali, e si fa quel che si deve. D'altra parte, come funzionari pubblici non possiamo fare diversamente. Lo Stato ci ordina di fare una cosa, la dobbiamo fare in quel modo. Perfetto, mi sembra chiarissimo. Seduti con la mascherina, ma a scuola e non a casa possibilmente. Certo, questa è la richiesta che arriva dalla Puglia. Il danno è stare a casa. E credo, io la ringrazio Romito, la ringrazio perché devo chiudere, credo di poter dire però che questa è una richiesta che anche Radio 24, anche noi in questo momento sposiamo, perché se effettivamente c'è una valutazione del rischio in questo modo fatta, deve essere la stessa per tutti, non ci possono essere scuole diverse in diverse zone d'Italia. Va bene, 13:45, torniamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.